English 24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Anche questa sera parliamo di vampiri. Anche questa settimana, insomma, i vampiri stanno vivendo un periodo di enorme successo. Nelle ultime settimane abbiamo parlato del sequel di Dracula, della serie di True Blood, e ora parliamo anche di un film. È in sala infatti Daybreakers, una storia proiettata nel 2019. Ci racconta di cosa si tratta il protagonista Ethan Hawke. The appeal of this film is precisely its originality. I mean, it's hard to even say the words original with a vampire and think that they go well. I mean, it's such an old genre, it's such an old scary story, and they've managed to do something new with it. It's combining it with science fiction, making it sociopolitical, making it scary again, you know, whatever way it is that you want to look at it, they've done it. And that's, it's fun to be with people who are creative like that. It takes place in the future, you know, the whole movie, where there's now more vampires than there are people, and they're ruining their natural resources. Mm-hmm. Depleting them, I should say. Allora, che cosa ci può attrarre di questo ennesimo film, ennesima avventura che riguarda i vampiri? Lo riconosce subito Ethan Hawke, è un periodo in cui se ne parla tanto, forse troppo, eppure qualcosa di originale, strano ma vero, c'è. Sì, maschera un po' questa cosa, cioè lui dice "The appeal of this film is precisely its originality", quindi quello che ci fa, cioè il bello di questo film è esattamente la sua originalità. Poi naturalmente si rende conto di aver reso una cosa un po' strana visto il periodo in cui i vampiri sono dappertutto, però lui non dice che è per quello che è difficile essere originali, poi dice "such an old genre", perché questa è una delle parole che gli americani prendono in prestito dai francesi, e in realtà lo pronunciano alla francese, ma è genere, cioè il genere vampiresco è molto antico. "It's such an old scary story", è una storia che spaventa da così tanti anni, potremmo dire. Però tra le righe si legge sicuramente anche l'altro aspetto, cioè che non soltanto è una storia molto antica quella dei vampiri, ma è una storia strasfruttata in questo periodo. Ma nevertheless, Daybreakers, secondo il suo protagonista, è molto originale. È originale perché, lo abbiamo detto, è ambientato nel 2019. Sì, quindi lui dice "it's combining with science fiction". Science fiction, naturalmente fantascienza, noi la chiamiamo così, però lui dice poi i registi, chi ha scritto la storia, è riuscito a "making it social political", quindi a farne comunque un film sociopolitico, "making it scary again" e a mettere ancora paura, come se forse appunto tra le tante variazioni sul tema vampiri si sia un po' persa per strada anche la componente scary, quella di paura. Insomma, alla fine però lui dice, comunque la vogliate vedere, è stato per lui divertente lavorarci. Credo che con questo intenda anche dire che forse ci possiamo divertire a vederlo, perché lui per primo ha provato un grosso piacere nel farlo. Sì, lui dice proprio, "it's fun to be with people who are creative", quindi naturalmente si riferisce a quelli di sopra che sono riusciti appunto a trasformare un tema un po' molto antico in qualcosa di nuovo. E poi ci spiega, ricordatevi, "takes place in the future", to take place vuol dire svolgersi, quindi si svolge nel futuro. E cosa succede in questo futuro? 2019, "there are more vampires than there are people", cioè i vampiri sono diventati la maggioranza sul pianeta Terra. E beh, questo è un po' scary. È un po' scary, mi sta anche un po' incuriosendo, devo dire, anche perché i registi sono piuttosto singolari. Sono due, si chiamano Michael e Peter Spierig, sono infatti tedeschi e sono una coppia molto particolare. Sentiamo perché. I can tell you that it's kind of a fascinating thing to be directed by twins, to be a part of the process of two brothers who've grown up together, writing together, dreaming together. And to get invited into that process is really kind of completely unique to my experience on a film set. It's also fun because they're really gifted and they're really young, so you know you're at an early point with them. They're going to get even better and stronger and more confident. But with that confidence will come other necessary downsides, and right now they're just... they're excited to learn and they're passionate, and that's fun to be near. con questa voce di Ethan Hawke. Io penso che il film vada visto in lingua originale, nonostante la bravura dei doppiatori italiani, però proprio una bella voce questo di Ethan Hawke. E questi gemelli tedeschi, perché l'abbiamo sentito, ce l'ha detto, sono gemelli. Ecco, perché appunto di fratelli sappiamo, no? A parte dai Coen in giù, ma anche i Wachowski, quelli di, si chiamano così, quelli di Matrix. Qui invece sono proprio gemelli, quindi the film is directed by twins, che naturalmente sono anche brothers, e quindi Ethan Hawke dice I've been part of the process of two brothers who have grown up together. Non è neanche detto che poi i gemelli facciano la stessa cosa, loro invece sì, quindi have grown up together e lavorano insieme, quindi lui si sente parte di questa interazione, più che processo potremmo dire in italiano, che c'è tra i two brothers and the twins. Parlano spesso gli attori dei film di Hollywood del loro rapporto con i registi, ed effettivamente avere un rapporto con due registi allo stesso tempo insomma sembrerebbe più difficile, ma anche più interessante. Tant'è che lui proprio dice è stato contento di to get invited into that, quindi di essere parte, proprio essere invitato a partecipare a questa strana interazione, e dice it's a completely unique to my experience on a film set. Ethan Hawke non è più un ragazzino, ma non è neanche poi così vecchio, forse non ha neanche 40 anni, ma di film ne ha fatti tantissimi. E quindi la sua esperienza on a film set, sul set di un film, una cosa così non gli era mai capitata, evidentemente gli è anche molto piaciuta. E c'è sempre nelle interviste che ascoltiamo degli attori americani questo aspetto della fiducia che si deve creare nel rapporto con il regista, in questo caso con i registi. Sì, quindi lui dice che la cosa bella, oltre a questa fiducia, è anche che loro sono molto giovani, quindi you find yourself at an early point with them. Cioè tu lui considera una fortuna l'averli conosciuti in una fase così iniziale della loro carriera. E lui dice they will grow stronger and more confident, quindi to be confident in a false friend non vuol dire avere confidenza, ma avere fiducia, quindi avere fiducia anche in se stessi, quindi loro diventeranno più forti, avranno più fiducia nei loro mezzi, but with that confidence will come other necessary downsides. Però quando uno diventa più sicuro di sé naturalmente si rigidisce un po', e quindi è bello invece conoscerli quando sono ancora così free and young and creative e tutto quello che ha detto. And passionate. Passionate and gifted, poi li ha anche definiti, cioè proprio che hanno un dono, hanno un grande talento. Ancora una volta, lui deve essere davvero divertito tanto sul set di questo film, perché lo ripete ancora dice, una volta. It's fun to be near them, cioè mi sono proprio divertito. Prima aveva detto it's fun to be with people who are creative. Insomma, Ethan Hawke likes to have fun on a film set. Come dargli torto? È bello divertirsi anche quando si lavora, lo facciamo anche noi quando facciamo English 24, ma dicevamo, è un periodo molto favorevole per questo tipo di storie e per i film di genere in generale, non tanto in Italia, purtroppo noi siamo stati molto forti, ma in America sicuramente sì. E cosa ne pensa Ethan Hawke? Well, you know, they make a lot of genre movies, a lot of horror movies, a lot of scary movies, but a lot of times what makes them not good is that nobody cares about the acting. And the Spirit Brothers certainly surrounded me with a lot of great actors, and they gave me every opportunity to do my best, I'm an actor, so I think that helps. I go see some of these movies when they obviously don't care about it, and I can't watch them because if you don't care about the characters, who cares if the fangs are cool? Mm-hmm. My character in the movie is a vampire blood scientist. And he's trying to come up with a blood substitute. It's almost as if he's a guy who's making fake meat, and good tofu sandwiches for vampires, and not having any success. Ci ha dato altri elementi molto divertenti di questo film, di questo Daybreakers, questa storia di vampiri ambientata però, dicevamo, nel 2019. Intanto però parla di questa fioritura, soprattutto a Hollywood, dei film di genere. Sì, dice, they make a lot of horror and scary movies. E qui veniamo un po', no? Cioè, è sempre un classico, le attrici, anche quando magari in altri telefilm o film, gli attori e le attrici dei film dell'orrore devono essere per forza scarsi. E questo lui lo dice, cioè alla fine ne facciamo tanti di questi film a Hollywood and nobody cares about the acting, però non importa a nessuno come si recita in questi film. non è più tanto vero con questi grandi film che sono usciti, però sicuramente è stato vero in passato, forse dal suo punto di vista lo è ancora. E invece lui dice qui no, I certainly, the Spierig brothers, dice i fratelli Spierig, certainly surrounded me with a lot of great actors. In questo film ci siamo trovati tra grandi attori, cioè mi hanno circondato di grandi attori. E effettivamente cambia l'importanza del film con un attore, I'm an actor, that helps. That helps, dice, certo, perché comunque, insomma, come se dicesse, insomma, da solo non posso reggere un film. They gave me every opportunity to do my best. Quindi questo fatto di aver scelto non solo lui, ma anche tutti i comprimari, great actors, ovviamente lo ha aiutato a recitare bene la parte del suo personaggio, di cui adesso ci dice qualcosa. E ci dice le cose molto, che ci stupiscono molto, perché com'è il suo character, personaggio? In un mondo in cui i vampiri sono più degli esseri umani, ci sono anche i vampire blood scientist, cioè ci sono gli scienziati specializzati in sangue di vampiro. E questo qui in particolare, che è quello che interpreta Ethan Hawke, is trying to come up with. To come up with vuol dire inventarsi, quindi I came up with an excuse, mi sono inventato una scusa. Però anche, per esempio, questo signore sta cercando di come up with blood substitutes, cioè sostituti per il sangue, probabilmente perché appunto c'è un problema di alimentazione, se hanno bisogno tutti. Sono quasi tutti vampiri, esatto. Sono finiti gli esseri umani. Poi racconta questa storia veramente singolare, cioè cosa vuole fabbricare? Quindi, che cos'è questo signore? È un signore che who's making fake meat, fake, finta, sta facendo della carne finta, cioè la sua massima aspirazione che cos'è? È creare dei good tofu sandwiches for vampires, che naturalmente è una contraddizione in termini, no? Dare il tofu super vegetale, voi sapete, avete presente il tofu completamente inodoro, incoloro e insaporo, ecco, e però non ci riesce a trovare il tofu dei vampiri. Is not having any success. Almeno questo è quello che ci svela Ethan Hawke. Andiamo a vedere il film e vedremo. E ci ha incuriosito, andremo a vedere il film per sapere qual è questa storia di vampiri ambientata nel 2019, quindi un po' mescolata con la fantascienza. Ce lo ha raccontato Ethan Hawke, il protagonista di Daybreakers. Il nostro tempo radiofonico per questa settimana si conclude qui. Io vi ricordo l'appuntamento con English 24 in edicola. Ringrazio Valeria Bernardi in regia. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.